E ragazzi, la cena dei regini, bentornati, nuova puntata. Ci aspetterà di tutto, ci aspetterà di tutto. Finalmente potremo anche dire anche noi, America, me senti? Avremo un ospite infatti in collegamento da Brooklyn, che sta in America. E quindi ragazzi, intanto gustiamoci la sigla e tra poco assieme. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. È stata una settimana entusiasmante, abbiamo visto di tutto, ma soprattutto ci siamo venuti a trovare degli amici da Foggia, un gruppo un po' particolare, a partire dal nome del loro album, del loro gruppo, Preti Pedofili. Ma poi alla fine erano dei ragazzi in gambissimo, cordialissimi, eccetera. Ci siamo fermati anche a parlare e a chiacchierare riguardo un po' tutto il panorama musicale non italiano. E quindi è stata una serata divertente, anche a base di pane e vino. Molto vino. Tanto vino. Troppo vino. No. Sì. Troppo, però voglio dire, è stata una bella seratina, ci siamo divertiti. 5 litri di vino finiti, proferiti alla folla. Assolutamente. E quindi... Quale folla? Quale folla? Quando è una folla? Io tra 5 persone metti in piedi. Un litro per ogni personalità di Panda. Ragazzi, è stata una bellissima serata e adesso ci aspetta un'altra settimana importantissima. Andremo ad intervistare i ragazzi che prenderanno parte del 6666, questo evento 666, questo evento, questa serata metal 666. Esatto, perché lui si sa l'inglese. Questa serata che ci aspetta, che andremo un attimo a sbirciare nel backstage, a intervistare queste persone che verranno a suonare, e poi comunque continueranno gli eventi il 24 con Come si uccide un drago, questo evento di gioco di ruolo dal vivo basato su Camelot, quindi il setting dove ancora Artù è ancora giovane, un bambino, giovane, quindi... Camelot è ancora nascente e tutto è nelle nostre capaci mani, quindi ragazzi bene. Venite, partecipate e facciamo una grande... Non lasciatelo nelle nostre mani, Camelot cade, salvateci! Panda, quante cose che ci aspettano. Cena@back.it per commentare questa puntata, il back.it per visitare il sito della trasmissione e ascoltare tutti gli episodi. E noi torniamo adesso dopo un piccolo spazio musicale. Ragazzi, bentornati alla Cena dei Regini, il Bacca.it per comunicare con noi, ascoltare le precedenti puntate di questa trasmissione. Ma adesso passiamo a un ospite eccezionale. L'ospite di questa settimana, lui è Neil, ha creato il progetto musicale Sound Status e pubblica in Creative Commons le sue canzoni sul web, quindi una cosa molto particolare, ed è in collegamento da New York alla Cena dei Regini, Neil Mataru. Ciao Neil, benvenuto. Hi Neil, welcome. Hello. Ok, Sound Status è il tuo progetto musicale. Una breve descrizione della tua sound musica. Sound Status, Neil. Yes. So, Sound Status is your music project. A brief description about your music. Oh, okay. You want me to tell you about the music? Yeah, sure. Okay. So let's see. About 8 years ago, I decided to become a musician full time as much as I can. So okay. That's when I started. I started writing my own music. At first, it was mostly just acoustic guitar music because I was trying to learn how to write music. You know, I wanted to keep it as simple as possible. And some of those songs, I re-released them in the past couple of years. Some of them were good. Most of them were pretty bad. But I was just learning, you know. And so Unexecuted, my song Unexecuted, is one of the big ones. That it was one of the first songs I wrote, and I still released it now. But the rest were pretty bad. Yeah, amazing. Yeah. Traduci... diciamo Demetrio fa il nostro interprete. Vabbè, per questa sera. Fantastico, già sto sudando dalla vergogna. Translate Demetrio. Translate. Dice che 8 anni fa ha incominciato a prendere seriamente come lavoro il musicista solista. Ha incominciato a imparare a comporre musica. Ed alcuni dei suoi primi brani erano veramente molto brutti. Ma ha continuato e fino ad oggi è arrivato qui col suo progetto. A migliorare col tempo. A proposito del progetto Sound Status e il tuo progetto musicale, come lo descriveresti? Una breve descrizione della musica di questo progetto. So, this is your project. What you want to say about your project? Yes. I used to have bands. I've had many bands. I played in bands and I was part of bands, but what happened is that the people that I worked with were always very slow working and pretty lazy. And then so I just got sick of working with people, and then I started releasing music by myself, recording it by myself and releasing it by myself, just because, you know, that was the way I was most comfortable releasing music. Ok, allora dice che ha sempre lavorato con band, sempre con altre persone, ma ha lavorato sempre con persone estremamente pigre e lente nel loro lavoro, mi ci rispecchio un po'. Ok, e niente, ha deciso di mettersi in gioco, diciamo così, giustamente. Nel frattempo diamo subito un riferimento internet a chi ci sta ascoltando e vuole trovarti sul web, come si può fare noi. So Neil, where can we find you on the internet? Okay, soundstatues.com is my main website for my music. Soundstatues.com, quindi per trovare tutte le sue informazioni e anche le sue canzoni da ascoltare. Neil, la tua musica vuole ricordare molto gli anni 80 e 90, ma tu come hai vissuto quel decennio? Che ricordi o che idee hai di quel periodo? Buck is saying, your music wants to remember the 80s and the 90s. How do you live those two decades? Okay, so I was born in 1980, so I grew up listening to 80s and 90s music. I loved the metal of 1980s, but I also loved the synthesizer music of the 1980s. And then I really also love The 1990s Nirvana, Smashing Pumpkins, Pearl Jam, all of that guitar music. And so I like to combine the guitar music of the 90s with the synthesizer and drum machine electronics of the 80s. Ok, quello che dice è nato tra a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, gli piaceva molto il metal anni 80 e anni 80-90. Nirvana, Smashing Pumpkins, questi gruppi a noi. No, credo più. Ma sì, dai. Scusate, ma veramente sto implodendo. Facciamo finta di sì. Niente, volevo ricordare molto questi generi e gli piaceva molto anche la musica sinfonica di quei tempi. Quindi ha mescolato un po' le cose con questi temi sinfonici e le drum machine. Il suo progetto. Ma Neil, tu hai scelto di pubblicare la tua musica in Creative Commons, una scelta particolare. Da dove deriva questa scelta e in che modo hai definito poi di finanziare la tua musica, comunque se ti è possibile vivere di musica? So you're choosing to publish your music in Creative Commons. There's a particular reason for this choice. Why did you do that? So Creative Commons, I found, is very popular in Europe, and I was seeing that most of my I had a lot of listeners in Europe, and so I thought this was a good way to reach more listeners in places like Italy, Germany, Netherlands, because they do follow Creative Commons music. So by having my music listed as Creative Commons, it helped a lot. Quello che dice è che la sua musica prendeva molto in Europa e che Creative Commons era veramente molto popolare. Grazie ai Creative Commons, quindi pensa tu, quando una volta ogni tanto abbiamo questo passo in più. A proposito di questa differenza, comunque l'America è vista dall'Italia come un paese di grandi opportunità, però in un momento di grande crisi. Com'è l'America per te che la abiti e com'è l'Italia vista dall'America? Domanda pericolosa. You know, we think here in Italy that America is big motherfucking country full of opportunities, but in a deep and lasting crisis. Yeah, well, that's my idea, but you know, so. And how's America for you? And how do you see Italy from the other side of the ocean? Oh, so I have a few Italian friends, and they were some of the nicest people that I've known, because here in New York there are so many international people. So I had a couple of Italian friends, lovely people, and I love the food. I love the attitudes there. And this morning I was just listening about on the radio about, you know, I was listening to the tax system that they have over there compared to America. So politically it's interesting also. But it's a lovely place and I want to come visit sometime. Allora, quello che dice dell'Italia è che la vedo un paese molto interessante e che ha molti amici, ha qualche amico. Qualche amico italiano in New York, perché è veramente un centro culturale pieno di etnie. Dice che sono le persone più simpatiche, più aperte, più cordiali che conosca. Ascoltando la radio, gli era interessato il sistema delle tasse che avevano qui in Italia rispetto a quello americano, e che trovava molto interessante anche la politica italiana, e che vorrebbe venirlo a visitare un giorno di questi, questo paese. Italy is learn and forget, but la domanda che faccio a tutti i miei ospiti, la domanda finale. Neil Mataru, sindaco per un giorno della tua città, cosa faresti subito per migliorarla? Quali sono le scelte che attueresti subito? So, this is the last question. You're the mayor of your city. What will you do you improve to? I would put the Wall Street people, the Wall Street banking people, I would put them in jail if I were mayor. Okay. Yes, and then I would make the tax system more fair for everybody else. That's what I would do for one day. Okay. Dice che prenderebbe tutte le persone da Wall Street, tutte le persone, tutti i banchieri, sbatterebbe in galera e successivamente farebbe un sistema di tasse più equo per tutti. Bravo. Pensa, anche Gordon Gekko, il mio eroe, andrebbe in prigione. Vabbè. Ragazzi, adesso Neil, ascoltiamo adesso insieme un tuo pezzo. Vuoi presentarlo tu? Come si intitola e cosa rappresenta? Well, Neil, we want to hear your song. Can you introduce it? Let's play Definitely Tonight. Definitely Tonight. Okay, so. All right, so this next song is Definitely Tonight by me, Sound Statues. I hope you enjoy. Thank you. Yes, yes. Noi ringraziamo Neil Mataru per essere stato ospite alla Cena Regina. Ascoltiamo insieme i Sound Statues. E un applauso a Neil. Thank you, Neil. Thank you for your patience. Thank you for everything. And have a nice day. Okay, thank you for having me on. Thank you, guys, and I'll talk to you later. Bye-bye. See you. See you, Neil. Bye-bye. I'm in the city of the damned and I'm looking for lust. When blood turns to ashes and dust, you gotta trust me. It's coming over you, I'm watching what you do. No matter what you're gonna do, not stop until you're through. Living for the drama of the night and I love it. Joining me a chameleon rushing in the exhibit. Watch out for the lifeline coming down above it. Hoping that there's something left for me to take a bracket. Still. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Adesso passiamo all'angolo delle notizie di questa settimana, quelle più divertenti, più particolari che abbiamo trovato, che abbiamo scovato nel web. E la prima è molto particolare: sta continuando la loro conquista del mondo. Noi l'abbiamo detto già diverse volte, i ratti si stanno attrezzando per conquistare il mondo. Un'invasione di ratti giganti sta seminando paura nel Regno Unito, dove segnalano ratti di circa 60 centimetri avvistati per la città di Liverpool. Questi ratti, che tra l'altro sono anche aggressivi, entrano nelle abitazioni e riescono a procurarsi il cibo da solo. 60 centimetri, penso che attaccano direttamente gli altri. Tu sei là che torni a casa da lavoro e c'è un ratto che si sta friggendo un uovo in padella. Sono portato il gatto di Gianluca, che risolve il gatto sauro di Gianluca. Certo. Oh mio Dio, Sofì, pensaci tu. Sofì, sì, la dobbiamo. Però i becca sono immuni ai veleni. Cioè, il normale veleno non funziona. Il topo è già velenoso di suo, quindi un veleno in più, un veleno in meno. Ma il topo più porta malattie più che veleno. Vabbè, come i nani, a resistenza a malattie e veleni più 20%. Queste cose sono tecniche, non si possono. E noi vediamo, Demetrio andare a combattere con la spada in gomma piuma. Andare a combattere i topi. Assolutamente sì. Ho 50 resistenza. Ma ragazzi, come la salute è sempre importante, appunto, e in Inghilterra, forse proprio per arginare il fenomeno, i dottori stanno passando alle visite tramite Skype, questa piattaforma che già sta, questo progetto che già sta coinvolgendo 7 milioni di pazienti per testare questa soluzione. Ovvero, tu tramite Skype puoi contattare il tuo dottore e lui ti può dire come stai e come non stai, cioè tramite Skype la visita. Mi senti? Top popolano le strade, noi visitiamo a domicilio. Non so se per agevolare il topo nella... Sì, ma quello poi... Carte di credito, comunque c'è un contatto da un punto di vista anche istituzionale, perché comunque il tuo dottore, solo anziché andare da lui fisicamente, lo chiami e gli dici: ah, da un dolore qui. Chiaro, no? Ovvio. Che cagata. Poi cinesi in cui si vede tutto sfondato. Diventerà come il call center, che sono tutti indiani, e ti dice: yeah. Scusa, hai un... Dov'è che ti fa male? Scusami, ho un tumore alla spalla, invece un buco. Ragazzi, sì, ma magari è grosso. La prossima inizio è già non letta, è comunque preoccupato. Può succedere. È in India, se non sbaglio, è successo in India a proposito di gente che finisce dal dottore. Lui è andato, quest'uomo, a un festival vegetariano, ma è caduto nei carboni ardenti. E quindi la CNN, mi sembra, ha sottolineato come lui ha rischiato di diventare poi alla fine la bracciola del festival. Cioè, è andato al festival dei vegetariani, faceva questa zucchine grigliate, questa cosa, e lui è caduto dentro i carboni ardenti. E quindi si è salvato, ovviamente, perché avevano questo staff prontissimo. Sì, ma che ci facevano i carboni ardenti? Ma loro è così, cioè come da noi il karaoke. Da loro c'è i carboni ardenti per... Ci facciamo un tiro di carboni ardenti? Ma certo! Ma tiro un po' di gente alle bracciole. Sì, sicuramente. In verità faceva parte della controparte, ha voluto pubblicizzare la carne, la carne arrosto. Questo episodio è stato molto singolare, perché comunque ha preso parecchio spazio. Addirittura questa TV americana l'ha anche apostrofato come una cosa divertente, ma quando ovviamente è abbastanza drammatico. Ma ragazzi, continuando nel binomio cibo e TV, c'è un programma ovviamente in America? No, Giappone. Ah, peggio. Ci può accettare la possibilità. Che è peggio, un programma che sfida i concorrenti a mangiare oggetti di casa. Ovvero, gli si presenta davanti per un tot di tempo una scena di arredamento domestico, loro devono individuare in tutta quella scena cosa è commestibile o meno, quindi un dettaglio commestibile, e devono provare a mangiarlo. Ovviamente alcuni hanno più fortuna di altri. Presto quindi... all'Auto Park! Ma se mangiano so che si vince. Vabbè, loro hanno dei premi, perché comunque... Qui i giapponesi sono bellissimi, assurdi, ma bellissimi. Sì, ma cosa si vince? Una confezione di cibo. No, il digestivo. Il gioco si chiama Sokuri Sweet, e quindi da dolcezza e Sokkuri, che vuol dire somigliare in giapponese, e quindi loro devono identificare questa cosa col rischio, ad esempio, di mordere una maniglia di una porta oppure di... Guarda, io se fossi... ma penso lo fanno anche loro. Mettere sopra i vari pezzi della casa che dovrebbero essere immagini della salsa piccante o cose del genere. Il premio è una ricostruzione odontotriatica gratuita. Ragazzi, la cucina è un altro mito che deve essere compreso, deve essere una passione che deve essere capita. Un'altra passione è quella per Game of Thrones, questa famosa serie televisiva che parla di... Giochi su un trono! No, di gente... che sposa gente e che picchia gente. Che muore gente, esatto. Okay. Famosa serie televisiva, da noi famosa come Il Trono di... Spade, ma soprattutto in Inghilterra un particolare appassionato in Cardiff, quest'uomo era veramente un fan sfegatato della serie, tanto che si era acquistato un draghetto che faceva parte del merchandising della serie. Primo dettaglio è che il draghetto misurava quasi 20 metri e lui se l'è costruito in giardino con l'aiuto di altri 6 amici, quindi sono messi là a fare questa bellissima opera di bricolage, perché 20 metri è anche importante. È una figata, cioè avere in giardino un bel drago, cioè, chi non vuole un drago in giardino? All'Aus prossimamente. All'Aus no, perché altrimenti mi chiedono l'ICI poi. E non è il caso, ma dramma nel dramma, perché fin qua è tutto fantastico, cioè i 6 amici, hai costruito il tuo drago di 20 metri e l'hai messo in giardino, ma... è arrivata la moglie che gli ha imposto di smontare il drago e di rivenderlo. Il drago? Sì, non il marito. Cioè, la moglie torna a casa, vede 20 metri di drago, invece di entusiasmarsi dice smonta quella cosa, via. Io avrei lasciato la moglie. Io avrei detto al marito di andarsene piuttosto che smontare il drago. Qua siamo, tu cosa avresti fatto? Non ce l'avrei mai una moglie. Risolvete così, perché anche questa è... Però avrei due draghi. È un'idea. Però avrei un drago, sì. Anche questa è un'idea, perché voglio dire, lui ha risolto così. A proposito di animali strani che fanno cose strane in posti strani, ovviamente la notizia viene dal... Giappone. Naturalmente. Ed è la storia di Tama, un gatto che fa il vero capostazione giapponese. Ovvero questo gatto era un gattino randagio adottato da un capostazione della Kishi Station, si chiama. Una volta adottato, poi la stazione è fallita. Poi ha riaperto questa stazione per le proteste dei giapponesi, dei locali, e hanno deciso, per un taglio di spese veramente esagerato, di assumere il gatto come capostazione. E lui effettivamente è il capostazione. Che poi Tama significa palla. Beh, perché hanno chiamato un gatto palla? Beh, perché si vede che è abbastanza cicciotto, insomma. Ah, veramente? Sì. E lui ha il compito formale di accogliere i visitatori quando entrano. Infatti si sono fornito il cappellino di cosa, e là Tama ha trovato un posto di lavoro alle ferrovie. Almeno lui, pensaci. Poi in Italia bisogna essere gatti per trovare lavoro. Pensa, cioè tu vai su un treno, prendi il Scilla Palizzi e ti... Ma non c'è neanche il gatto che ti fa da capostazione. Poi... Al massimo lì uno di quei sorci di 60 centimetri. Le pante grandi. Loro faranno i macchinisti. Gli scaricatori di porto. Ragazzi, per quanto riguarda le grandi innovazioni tecnologiche, arriva dai Paesi Bassi questa grande idea, perché sono una particolare vernice fluorescente con cui hanno dipinto 500 metri di asfalto. La particolarità è che questa vernice fluorescente è talmente brillante, diciamo così, particolare, che non ha bisogno di essere ulteriormente illuminata. Quindi 500 metri hanno sparato questa vernice là sopra e la strada si è illuminata da sola. Quindi pensa tu. Però ci sono anche delle... la stanno comunque vagliando, perché c'è il problema che magari con l'usura poi la luce viene a calare. Non so perché, ma voglio ricollegare di nuovo questa cosa con i sorci di 60 centimetri. Non ne usciamo. Perché? Cioè il collegamento vernice sorci Non so perché, ma mi immagino quei sorci fluorescenti di notte che assaltano l'Inghilterra alla Braveheart. Io capisco perché l'ho letto prima. Io ho letto che sempre un questo sistema vogliono fare altro tipo di vernice che risponde ad altri fattori, come ad esempio i gradi ambientali. Ad esempio il freddo, il caldo. Più fa freddo, più si illumina il simbolo di un fiocco di neve per terra, in modo da dire, ehi, qui potrebbe essere ghiacciato. Fantastico. No, cioè, perché non la vedi la neve. A raggio si potrebbe adattare alle brise. Se ghiaccio? Sì, ma penso c'è sempre troppa. No. Tanta. No, a raggio c'è, ma in versione 3D, quindi comunque abbiamo delle fosse che fanno. Per rallentare mettono le fosse, ragazzi, le fosse che per fare rallentare la gente. Per rallentare le persone, in un modo o nell'altro rallentano. È una segnale di che 3D, infatti, è una segnale di... Oppure quando mettono le sedie dentro le buche. O la spazzatura. Dentro. Che è tutto. È fantastico. Pronto, ci ho trovato il mostro di cuore. Il sistema adopto. Utilizzi la spazzatura per riempire le buche. Ragazzi, ci sono comunque diversi. Necessità fa virtù. Ovviamente diversi sistemi per approcciarsi alle cose, quindi anche alle innovazioni più divertenti. Un'innovazione di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse della cena è il 2048, questo videogioco che sta ulteriormente conquistando la Russia, la Cina e il Giappone, quindi gli unici paesi in grado di comprendere il divertimento del gioco. Me ne ha fatto una versione calabrese un mio amico. Ah, ulteriormente, quindi siamo oltre la notizia. Che stiamo dicendo, perché la notizia di cui stiamo parlando è la versione trash di 2048. Hanno fatto questa versione trash in cui anziché i numeri ci sono questi vari personaggi meravigliosi. No, quindi si va ad esempio da incastrare Paolo Brosio con DJ Francesco oppure Barbara D'Urso a come si chiama questo tizio? Al tizio che fa le robe su YouTube. Oppure Fabio Volo con Beppe Grillo, ad esempio, li può incastrare tutti e creare Berlusconi. Meraviglioso. Che sfortuna! Che è il massimo. Che è il massimo. E quindi pensa tu, questo ragazzino Gabriele Cirulli, lui tra l'altro lo rilasciò gratuitamente in versione open source questo gioco per, abbiamo detto l'altra volta, permettere a tutti di giocarci e migliorarlo. E invece c'è stato un miglioramento all'italiana, questa versione trash. Non ha risparmiato. Ma è bellissimo, si fiero. Questa versione calabrese invece attacca Nduia e Nduia, compari con compari, lupara con lupara. Perché? C'è anche Scopelliti che è il massimo. Ah, quello è il top, giustamente sì. Giustamente è il top oltre il quale non si può andare. Come no? Andiamo avanti, perché comunque su cose da non fare ci sono anche delle cose utili a fare. Ad esempio, a Roma hanno delineato alcune regole utilissime per dormire bene, quindi per migliorare il sonno, e quindi delle direttive molto semplici. Ad esempio, il cuscino deve essere di raso di seta. Quindi scivola la testa. Deve essere di raso di seta, devi spendere quei 10 urini in più per permetterti. Mi raccomando. No, a me non sentirebbe più, cioè. Vabbè. Perché deve essere di raso di seta? Perché dice che la pelle le ciocche dei capelli non si annodano e la pelle ha quella sensazione di liscio. Io ho questo problema. Una volta anch'io questa sensazione di risveglio al tocco morbido che aiuta. Quindi cuscino segna cuscino raso di seta. La posizione è molto importante, la posizione è sempre molto importante per addormentarsi pancia verso l'alto, in modo da non lasciare i segni del cuscino sul viso. Pensa di raso di seta e serve per ammorbidire la pelle. Ma se non si può rischiare, capisci? Questo è il sonno, stiamo definendo il sonno perfetto. Il sonno perfetto è quello là in cui tu devi restare pancia all'aria, non permettere al cuscino di piegarti il viso che allunga. Fermo, dritto, rigido immobile. Come un cadavere, immobile. Quindi segna. Posizione pancia all'aria. Quando? Altra cosa importantissimo. struccarsi al 100% per permettere la raccomando, di meglio struccato. Mi dispiace, ma devi perdere l'affetto, matita, ma tutto, devi andare via tutto. Io che perdo mezz'ora per, prima di venire qua. Lo so, ti capisco, ma non devi farlo. Perché la barba in verità è finta e lui la deve attaccare col bostic. Fate dei buchi così sotto il mento. Però un altro suggerimento, quello finale, è non esagerare con alcol e sale prima di andare a dormire, perché comunque aumenta il rischio. Siamo rovinati, ragazzi, siamo rovinati. Ma se cucina il panda col sale andate sicuro. Anche col vino, Basta, beh, non. E poi utilizzare la crema notte per avere la pelle luminosa e rigenerata qua al risveglio. Va bene. Crema notte, quindi segna. Crema notte. Una persona che se ne va a letto si potrà ricordare di tutte queste cose? Io appena vado a letto crollo e mi addormento. Io c'è tanto seccato sul letto. Ti sveglierai un giorno con le rughe, triste, eccetera, e non te la prendere con noi. Noi diamo i suggerimenti ai ragazzi. Sì, ma io già mi sveglio triste e con le rughe. Che devo dire? Stai perché così, non segui il suggerimento. Vai benissimo così, vai benissimo così. Stanotte... prendi un pezzo di lato, metti il cuscino e dormi con il pancinario e truccati tanto. Ragazzi, comunque adesso passiamo allo spazio un attimo più pepato, bollino rosso, perché la notizia che un po' ha delle sfumature un po' hard, diciamo così, la riserviamo sempre alla fine per permettere ai minorenni presenti qua di addormentarsi nel frattempo. Esatto, come vedete funziona appunto. Congresso europeo di dottori, diciamo, nel settore, congresso italiano che si è svolto a Stoccolma, alla faccia della Spending Review, che giustamente sono andati là, e hanno delineato la dieta migliore per un sesso felice. Cioè, quindi ci sono comunque quegli alimenti che possono aiutare. La cosa importante, primo di tutto, ragazzi, per noi particolarmente a cuore, il peperoncino. È vero, il peperoncino aiuta, però non devi esagerare. Panda, anche tu, non devi esagerare. Perché esagerando poi là comunque c'è un decadimento, diciamo, del fisico, quindi il peperoncino aiuta in quelle fasi, ma con limitazione. Hai... approvi? Ho preso appunti. Altra cosa, super alcolici. Luppolo, birra e via dicendo, possono essere irritanti, quindi meglio non esagerare. Lascia stare. Quindi niente, no. Stanno sempre quelli. Niente super alcolici. Per la dieta. Non puoi togliermi la birra, non puoi togliermi il vino. Invece un vero e proprio toccasana è il vino rosso, le verdure e elementi con la vitamina C. Quindi voglio dire, quindi. No, con 5 litri di vino serviva. Con le cose, cioè devi mangiare sano al 200%, però il vino te lo puoi permettere. Buono, l'importante quindi, è questo. L'importante è avere comunque quella piccola valvola di sfogo. Pronti? Avete segnato tutto? Peperoncino domani, mi raccomando, compralo. Ci deve essere per forza. Vino rosso l'ho già portato. Vabbè, noi qua, voglio dire, ci teniamo sempre preparati, che poi non succede niente, però... ma infatti nessuno di noi tromberà mai, quindi... però è bene comunque stare sempre sereni, ragazzi. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale, a tra poco il Bacco.it. C'è una chioccia del Bacco.it per commentare questa puntata e magari segnalarci i vostri piccoli trucchi per... dormire meglio. Cosa ridete? Spazio musicale, a tra poco. See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when he beats me down. Trade on me, my power's amazing. There's a mystical drawing somewhere in my notebook. Something about love, something higher than. Believe me, 'cause I'll never lie. Bentornati alla cena dei Regini, il back.it per seguire per riascoltare le puntate precedenti o per seguire quelli che sono gli sviluppi di questa trasmissione, ma soprattutto per contattarci e commentare questa puntata. Andiamo allo spazio della classifica, uno spazio seguitissimo. Alla Spezia di sotto le casalinghe non ascoltano altro. Cosa ridi? Iniziamo male ragazzi. Ricordiamo la settimana siamo tra la terza e la quarta alle hit radiofoniche. Dobbiamo migliorare, ragazzi, dobbiamo migliorare, e questa classifica ci farà risollevare ulteriormente. Ci fai il salto di qualità che per farci arrivare alla prima posizione. 9 modi per vedere la vita che ti faranno superare ogni difficoltà, perché alla fine i problemucci ce li abbiamo tutti, no? Ad esempio, non manca il lavoro, il famoso il problema del lavoro, Animale mitologico che ogni tanto ti vede. Esatto, oppure la fidanzata, c'è chi soffre comunque perché non ha la fidanzata. Invece noi diamo quelle nove idee, cioè nove consigli, consigli filosofici per stare meglio con se stessi. Allora, numero 1: vedi le cose in modo oggettivo. Cerca di distaccarti da questa visione troppo personalistica e cerca di vedere le cose in modo perché oggettivo. Magari un problema visto all'esterno può risultare anche più piccolo, comunque magari diverso come lo vedi tu personalmente. Chiarissimo. Pure una cosa che tu vedi in maniera personale, eccetera, invece magari vista con una prospettiva più distaccata dici ma alla fine è questo il problema, anche da una prospettiva più distaccata è sempre... Ma no. Provaci. Adesso che abbiamo avuto questo insegnamento, vedrai che funzionerà. E siamo a 9. E passiamo alla numero 2, che si ricollega perfettamente con questo stato di essere, perché alla numero 2 non dipingerti un futuro irrealizzabile. Quindi comunque non tutti abbiamo diritto di essere felici, però non devi dire no, basta, non ce la faccio, ma com'è possibile, com'è, non ce la farò mai. No, invece no, capisci? Tu dici ma io dico sempre che ce la farò. Bravissimo. Adesso non falli tu. che scherzi tu ci scherzi, ma sono bravissimo, migliore. Allora, tu questa trasmissione, questa puntata devi scaricare in podcast dal back.it e ascoltarla ogni sera per andare a dormire. Questo blocco, mi raccomando, così carico, ragazzo, carico. Magari con Eye of the Tiger sotto. No, perché poi non ce la mandano, perché non è Creative Commons. Alla numero 3, mantieni la calma. Devi calmissimo. Cosa è più importante di comunque essere forti, però mantenendo una certa calma, una certa... Mantenere principalmente quello solo di pietra che... Perché purtroppo quando un sentimento come il negativo ti va a modificare il tuo stato d'animo, tutto viene dipinto in maniera più grigia, più triste. Ma io sono sereno come un morto. Non è vero! Sì. Non puoi essere sereno come un morto, un morto è un morto, non puoi essere sereno. Puoi essere Paolo. Andiamo alla numero 4 adesso. Andiamo alla numero 4. È un pezzo di sugo. Mantieni la calma, ragazzi. Appunto, manteniamo la calma. Vedi, è un insegnamento da mantenere anche durante la cena dei Regini. Alla numero 4, non essere ossessionato dalla ricerca della felicità. Capisci? Io non mi sono ossessionato, l'ho abbandonato da molto tempo. bravo, e qua fai bene. Perché se tu ti ossessioni, dici, non sarò mai felice, come si fa? È peggio. Invece tu devi, questo è l'atteggiamento giusto. La rassegnazione. In questo caso, non è rassegnazione, perché alla fine è più che altro renderti conto che è rassegnazione. No, sono d'accordo. Una felicità andata a cercare troppo la felicità è sbagliato, perché comunque quel pensiero fisso, finché non lo trovi, sei infelice. Se invece vivi le cose giorno per giorno, perché sei contento di quello che c'è intorno, di quello che succede, di quei piccoli gesti che hai verso gli altri e che gli altri hanno verso di te, è tutto diverso. Non è una ricerca continua della felicità, che hai bisogno di vedere quell'obiettivo finale, non c'è nessun altro, ma vivere la vita momento per momento, rendersi conto che comunque tutto ciò che ci circonda può renderci anche di poco, anche un po' più felici. Che stronzata. Grazie. Che lascia dire, coraggio. Penso, è giusto che sia così. Hai spoilerato qualche punto per poi andiamo avanti, però vabbè, si va avanti lo stesso. Quindi, non essere ossessionato alla ricerca della felicità. Come ho già detto, come ho già però detto no, prima. No, però non devi essere neanche ossessionato alla non ricerca della felicità. Quindi, e non posso essere ossessionato, e non posso essere rassegnato. Stai zitto, te. Però lo stai elaborando, quindi è buono. E infatti, al numero 5, impara a rialzarti dopo una caduta. Ma io sono sempre in piedi, sempre in piedi per ricevere un altro schiaffo. Per quello ci sono sempre. Quindi devi essere ottimista ma realista. Quando ti danno uno schiaffo, tu porgi l'altra guancia. Ma io lo sto a finire. Le guance? Ma me l'hanno consulto. Guarda, un vecchio, un proverbio cinese, molto cinese, dice che bisogna essere come l'erba che c'è per terra. Adesso dimmelo in cinese, voglio vedere se sono la stessa maniera. Giapponese comunque, perché ovviamente ogni volta viene calpestata, comunque torna rigogliosa a esserci verso l'alto. È bello. È bella questa cosa. Non se ci cammino sopra, Andrea. Anche se fosse bello. Ma basta, io non cresce più nemmeno un filo d'erba. Sì, atti la fratello di Dio. Preferivo quella interpretazione. Al numero 6, ragazzi, soprattutto per chi ha contatti con la videocamera quando registriamo la Cena dei Regini, vivi nel presente. Vivi nel presente perché il passato è passato e quello che è successo va accettato per come è stato. Quindi vivi nel presente. Ho già accettato tutto. C'è un capitolo che stai vivendo e devi pensare solo al presente. Questa è una delle cose più difficili da fare, secondo me. Perché il passato comunque torna in qualche modo, comunque ho in mente attraverso qualche cosa di fisico, come o una persona, o un oggetto che vedi per strada, o magari torni in un posto e hai passato dei bei momenti. È difficilissimo allontanare il passato dalla propria mente, però è anche vero che se si assume il passato di un'arma a doppio taglio e ti fa male, torni a... è sbagliato. Se invece lo usi come dovrebbe essere la storia insegnata durante l'anno scolastico per migliorare il futuro, è quindi tutto un altro livello. Separare l'insegnamento dal dolore e quindi a vivere nel presente. Quindi comunque, come diceva Oscar Wilde, l'esperienza è un altro nome che diamo ai nostri errori. Fantastico, fantastico, vedi, quindi quando avete poco tempo. C'è Andrea che mi guarda di un male. Perché anche lui ha beccato sto sito d'aforismi su internet. E poi no, ho visto perché abbiamo preso la stessa cosa, quella puntata dei Sims. Quella puntata dei Sims. Ragazzi, qua dobbiamo fare culture, anche i Simpson fanno. È capitato di questa cosa. Alla numero 7, importantissimo, questo è importantissimo. Non fermarti finché non raggiungi i tuoi obiettivi. Un padre. Non fermarti. Ah, ma io mi sono già fermato, non ho raggiunto il mio obiettivo. Cioè, la conquista del mondo, a che punto è? Ma, il 10%. Ma quello... È il dominio su Gebbione e pochi quartieri limitrofi e quindi... Però tu, comunque, finché non raggiungi questo obiettivo di... Niente, assoluto. Un benessere, una felicità, no, ci sarà. Via, via. Non è un'idea di niente. Morte interiore, depressione, allegria, fallimento, putrescenza. Ragazzi, si avvicina alla pasquetta e è abbastanza in calma. Io lo farei. Mai. Guarda, se io incomincio col pennarello, ti dico quale parti da scattare. No, che poi se dobbiamo fare altri collegamenti ci devi commentare. E vabbè, tenete magari la non testa. Si butta via niente. Appunto, tenete la testa, tanto quello che serve. Di tutto. Alla numero 8, ragazzi, impara a capire quando è il momento di concederti una tregua. Quando è il momento di dire calma, tregua, pace e poi magari tu sei in un periodo di tregua con te stesso e non lo sai. sono dall'inizio cercando... della mia vita. Che è giovane, quindi può essere che comunque tu sei in un periodo di tregua. Relativamente penso di sì. Alla fine i problemi esistono ogni giorno. E quindi comunque siamo tutti in questa... Sì, bisogna sempre tagliarti quei 5 minuti in cui non pensi altro che a qualcos'altro che ti può far stare bene e non rimanere tutta la giornata a stare male, a pensare, avere un pensiero fisso. E quindi giustamente... O l'House of Bach, o la cena del Gini giovedì, o venire qua a cenare con tutti quanti. Quanto è bello. O gli eventi, i live, i concerti, il vino. Anche per me, una volta a settimana quella botta di colesterolo della cena del Gini è sempre questa... questo input in più per dire. No, poi, a parte, poi lo si immagina che comunque questo che poi va in trasmissione è un 10% della è serata scorsa, che poi la punta è live, perché poi mi sono ricordato chi mi ricorda The Matthew. È tu presente io di Winnie Pooh? Come no? L'asino. L'asino, quello con la coda che si stacca. La stessa voce, lo stesso... Fantastico, questi momenti di entusiasmo anche tra i commensali della cena. Alla numero 9, ragazzi, l'ultima, fondamentale, importantissima, quella proprio al di sopra di tutto: ama quello che sei. Ama quello che sei. Nel tuo caso può essere difficile. No. No. Ok. Però bisogna apprezzarsi comunque per quello che sia. Vabbè, in generale, dico, avere delle... Ama il tuo essere confuso. Ama il tuo Wing Chun. Le citazioni dai Simpson sono importantissime, sempre. Poi amare quello che si è, quindi le prospettive, i punti a favore, anche un po' i difetti, anche, voglio dire, che ci rendono peculiari, no? Questo sì. Alla fine... noi non siamo altro che pregi, difetti, i nostri errori e quello che qualcuno lo faccia stare zitto. Perché? il momento filosofico sì. Di questa puntata. Noi siamo quello che è. Sta venendo uno sbocco. Lo sbocco. Ho detto così sbagliato. Ma vedi quanto è bello avere tutti e due ai lati, perché comunque uno è il sacro e l'altro è il profano. Anche questa sera realizziamo. Dito in culo sono sempre io. No, Fili, c'era di questo qualcun altro, durante una cosa di buona la prima che abbiamo fatto qua, di cui poi ti racconterò. Poi non è detto che lo voglia sapere, ma ragazzi, c'è il chiocciolabacca.it, commentate e scriveteci qual è il vostro piccolo escamotage per cercare un miglioramento della vita, qual è la vostra filosofia di vita per vedere meglio le cose come accadono. Noi ci vediamo adesso dopo un piccolo spazio musicale. Take a stand for me and you. I am true and will never ever ever try to make you blue. And if I do, can we forgive and forget? Can we ignore the upset? Cause I can promise you that life is short but beautiful, and if we connect and be dutiful about keeping our words full of love, keeping our actions consistently above and beyond, rising at dawn to make sure that you're still there and we're still one. Even in death I can feel your stare of pure j'adore. You are mi amor. You made me think that love is what life is for. When you are creative and sometimes wrong, but there's no judge, it's all okay. We write our book every day, and when I cry you dry each eye and make me laugh but unattached, so that I know it's on me, so I can grow and still be free. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm coming home. You are a mirror. You let me play. You got me in a zone. I see my higher self when you are near. And now I'm never wrong. I can loosen my belt. Relax, no fear. Regina, che questa settimana ce la siamo spassata, tanto cibo, tante chiacchiere, tanto tutto, anche tanto allegria, no? Allegria. Tanto inglese, inglese di quelli seri, inglese americano di quelli seri, e quindi comunque l'inglese agricolo, come lo definite, il mio inglese agricolo. Voi seguiteci back.it per sapere tutti gli eventi e cosa succederà quest'altra settimana. Registratevi anche alla newsletter, che è disponibile sul sito, per avere nella vostra email tutte le informazioni in tempo reale su quello che succede qui. Pensa che cosa fantastica. E noi ci vediamo settimana prossima, il giovedì su Radio Abagual, il fine settimana su YouTube. Ciao ragazzi, e un applauso a noi. Ciao.